Sei persino andata dal parrucchiere stamattina? Quelli Sì, prima sono anche andata a pagare i contributi alla posta, scadevano oggi. per la colf, immagino. Brava, però oggi mi faccio bella per Verdi perché anch'io festeggio il suo compleanno come Ah, stanno facendo a Busseto, ad certo, esempio. giustamente, grandi celebrazioni, tra l'altro anche alla Scala di Milano quest'anno, apertura della stagione con la Traviata. Sì, però già da oggi fino al 27 di gennaio, sai perché 27? Forse perché è venuta a mancare quel giorno? Brava, quindi dal 10 ottobre al 27 gennaio ho letto che ci saranno più di oltre 80 eventi. Benissimo. Uno ci andiamo a vedere, no? Senz'altro. Intanto facciamo la nostra puntata di oggi. Lavoriamo! Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tutti i bambini si meritano un bel 10, Deborah. Sono d'accordo, 10 e lode su tutte le pagelle. Ma soprattutto 10 decimi. I bambini si meritano tutti 10 decimi. E questo è lo slogan della Giornata Mondiale della Vista, che come ogni anno cade nel secondo giovedì del mese di ottobre. Quest'anno la giornata è proprio dedicata alla prevenzione dei disturbi visivi dei bambini. Allora oggi a Cuore Denari, tra l'altro Radio 24 è la radio ufficiale degli ipovedenti e dei non vedenti, vogliamo ricordarlo. Oggi in particolare dedicheremo la puntata ai controlli da fare, soprattutto ai segnali che i genitori non devono trascurare, perché, lo ripetiamo, in 8 casi su 10 la disabilità visiva potrebbe essere evitata. E allora, se abbiamo fatto venire il dubbio a qualche genitore, ci può chiamare all'800240024 perché questo è il giorno giusto per condividere con noi i vostri dubbi, i vostri timori e per capire che cosa fare. Oppure potete raccontarci il difetto visivo con cui convivete da quando eravate piccoli, Sì, perché Deborah? guardi me. Oppure che avete incontrato nel corso degli anni. Come è cambiato? Vediamoci chiaro al 349-238-6666 per i vostri messaggi. E infine, la Giornata Mondiale della Vista è anche l'occasione per riflettere su un fenomeno che ci fa sempre indignare molto. Ci sono anche tanti, troppi falsi ciechi e falsi invalidi. E proprio perché abbiamo a cuore la situazione di chi deve essere invece realmente tutelato, non vogliamo che i denari del nostro paese e di noi contribuenti vengano destinati a persone disoneste. Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione, rispondendo anche a tutte le vostre domande sul tema delle pensioni di invalidità. Essere e benessere. Giornata mondiale della vista, intanto che ci state ascoltando, se siete a caso sul posto del lavoro, non in macchina naturalmente, provate a chiudere gli occhi. Pochi secondi bastano, proprio giusto il tempo per riflettere sulla vista e sulla sua importanza. Io vi invito a farlo anche in altri momenti della giornata. Provate a entrare a casa senza accendere poi la luce, cercate nella dispensa un prodotto ad occhi chiusi. Sono piccoli esperimenti che ci aiutano a capire quanto la vista condizioni gran parte delle nostre azioni, perché 8 informazioni su 10 ci giungono attraverso questo senso. Noi non ci pensiamo, ma credo sia importante prenderne consapevolezza. La Giornata Mondiale della Vista può essere una buona occasione per insegnare ai piccoli e per ricordare ai grandi che la vista è un bene prezioso e delicato e come tale va tutelata, controllata e protetta. Il bastone bianco ci rende super visibile. E la cosa che dicono tutti è: ah, vi vedo sempre passare, vi vedo sempre. Ma come vi vedo sempre? C'è un po' inquietante questa cosa. Fanno quello che state facendo voi. Saresti più insensibile, ma cosa vuol dire? Vi presento tanti non vedenti che sono veramente dei scarponi. La sensibilità dei Quello che state sentendo è un trailer di Per altri occhi. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il regista, che è Silvio Soldini. Grazie, sono molto felice che lei sia qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, lei ci racconta Per altri occhi? Come le è venuta un'idea e che cos'è? Mi è venuta perché 2 anni e mezzo fa circa avevo il mio mal di schiena cronico, praticamente era aumentato, lombalgia e un'amica mi ha proposto di andare a farmi curare da un fisioterapista osteopata non vedente. Sì. Io ho detto, beh, perché no? Forse meglio lui di tanti altri. E infatti sono andato e ho conosciuto Enrico, che è uno dei protagonisti del film, e che poi nelle varie sedute che abbiamo fatto successive, 3 o 4, ogni volta mi raccontava quello che faceva, i weekend a cui arrivava, che era stato in sci, che aveva iniziato a sciare a 54 anni, che aveva una regata non so dove, insomma. Quindi l'ha fatta entrare in un mondo e l'ha insegnato. Ha aperto un mondo, diciamo, che, insomma, io un po' come tutti, credo, noi cosiddetti vedenti, non ci aspettiamo delle grandi cose, no? Al di fuori della nostra normalità, tra virgolette, sì. Invece esistono anche altri mondi, esistono anche altre persone. Ho trovato, poi ho fatto una ricerca, insomma, sono andato a cercare sia persone che conosceva Enrico, sia altre trovate in altro modo. Ho parlato con tanti non vedenti, almeno una cinquantina sono stati contattati, tra questi ho scelto 10 di queste persone che sono diventate personaggi del mio film e che sono veramente persone bella. Meravigliose, perché affrontano la vita con una forza, una vitalità e un buon umore che a noi molto spesso manca e questa è la cosa forte, sì, del film. Silvio, a proposito di film, so che c'è stata un'anteprima ieri, c'è stato in contemporanea in 30 sale nazionali. Dove andrà a finire Per altri occhi? Perché penso che sia è importante parlarne oggi, ma è un film da consigliare e da vedere, anche perché fa entrare e vedere la vita con altri occhi. Sì, credo che sia molto particolare, perché è un film in cui è un film che alla fine è molto emozionante e divertente, perché i personaggi che sono i protagonisti del film, insomma, sono persone che hanno una grande ironia anche, quindi una leggerezza sulle cose della vita, e questo aiuta tantissimo, alla fine lo fa diventare anche un film terapeutico, credo. Ecco, per questo. Noi. Non è un film che parla dei non vedenti, parla alla fine di tutti, parla di noi, parla di come si può affrontare la vita anche con un handicap così tremendo per noi, non per loro, perché loro sono abituati a questa cosa qui. Maestro Soldini, sanno che così è e c'è poco da fare, quindi vanno oltre e riescono a vivere in un modo per noi inimmaginabile, ecco, questo è un po' quello che accade. Maestro Soldini, volevo farle io una domanda, mi scusi se la interrompo, le volevo chiedere se è difficile portare la disabilità nella sala cinematografica, appunto dietro una telecamera o davanti ad una telecamera. Certo che lo è difficile portare un documentario al cinema in Italia, perlomeno, e poi per di più un documentario che parla con un tema del genere, c'è una doppia difficoltà, certo. È per questo che abbiamo pensato di organizzare questo evento che c'è stato ieri in 30 sale italiane, in cui c'era il film e poi via satellite veniva trasmesso questo incontro che abbiamo fatto all'Anteo di Milano insieme anche a Giovanni Soldini e Gianna Nannini, che a cui è piaciuto molto, hanno accettato di esserci. Ma tutti noi che non abbiamo potuto venire, ci dia un'altra opportunità, perché Deborah mi fa sempre lavorare, non mi lascia mai, certo. Perché lei è una donna di denaro. Purtroppo non dipende da me, ma dipende dai gestori delle sale di cinema d'Italia. Troveremo il modo. Dai, allora ci impegniamo tutti. Ci impegniamo tutti, Silvio. Così, sì, adesso si sa che ci sarà a Milano settimana prossima, almeno per settimana prossima, e le domeniche a Milano ci sarà, però per ora è l'unica città e speriamo che ci siano altre che si accodano. Dai, ci proviamo con cuore e denari. Grazie a Silvio Soldini. Grazie, buona giornata. A voi, grazie. Arrivederci. A voi. La giornata mondiale della vista di quest'anno, voluta dalla IAPB e dall'OMS, è dedicata alla prevenzione dei disturbi visivi dei bambini, perché come recita lo slogan di quest'anno, tutti i bambini si meritano 10 decimi. Deborina, tu porti gli occhiali da quando eri piccola? Sì, da parecchio piccola, insomma, se ne è accorta la mia mamma, naturalmente, perché forse stropicciavo con le dita appunto frequentemente, mi si arrossavano, e quindi, a parte che io ancora da piccola ero già alta, però chissà, ve la immaginate Deborah Rosciani piccola? Ma per carità, poveri ascoltatori, non li traumatizziamo però ulteriormente. Brava la mamma che si è accorta, sì. Ed è importante far controllare la vista ai propri figli sin dai, proprio dai primi anni di età, prima di iniziare la scuola, e poi farlo regolarmente. È, direi, un ottimo investimento per la loro salute, perché i cinque sensi sono tutti importanti per vivere bene la vita, ma come ci ricordava Silvio Soldini, forse il più importante è proprio la vista. Se ci pensiamo, la vista accompagna, anche supporta le varie fasi dello sviluppo psicomotorio del bambino. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Francesco Loperfido, responsabile degli ambulatori di oftalmologia generale dell'unità operativa di oculistica al San Raffaele e consulente della commissione difesa vista. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottore, portare i figli dall'oculista è un'abitudine che la maggior parte dei genitori italiani direi non ha, perché stando un'indagine che avete fatto proprio con voi della commissione difesa vista, emerge che il 70% pensa che la visita oculistica, diciamo così, non sia strettamente necessaria, ma sono certa che cambierebbe idea leggendo i vostri dati. Indubbiamente è così, infatti l'anno scorso con controlli effettuati dalla commissione di difesa vista si è visto che su circa 650 bambini tra appunto i 18 mesi e i 16 anni sono stati evidenziati vari problemi di vista. Di questi il 33% risulta essere ipermetrope, il 16% astigmatico e un 10% miope. Sì. Eppure una buona percentuale, pari al 60% di questi bambini visitati, non era mai stato da un oculista, oppure c'era stato troppo tempo indietro e le situazioni crescendo poi cambiano. Andrei a Cristina che ci chiama da Udine, che ci chiama all'800240024. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Io volevo parlare della mia esperienza di occhio pigro, volgarmente detto, e del fatto che mia madre si accorse subito al tempo, io ho 47 anni, e però non abbiamo trovato subito l'oculista bravo, al tempo non ce n'erano. Certo. E oggi vedo tanti bambini, anche all'asilo, quando portavo i miei bambini all'asilo, che avevano un leggero strabismo e consigliavo di andare subito dall'oculista. Sì. Perché poi lo sviluppo del cervello, dopo i due anni, il dottore lo confermerà, non permette più di mettere insieme la vista dei due occhi. Certo. E questo mi dispiace molto, che non venga fatto subito il controllo di entrambi gli occhi. Quindi anche Cristina sottolinea un concetto molto importante: portiamo i nostri bambini a controllare dall'oculista, perché ci sono dei disturbi che, se corretti precocemente, possono essere risolti molto bene, come l'occhio pigro, dottor Loperfido, che ricordiamo è una patologia che di solito si deve correggere prima dei 3 anni di età, no? 3 o 4 anni di età. Assolutamente, sì, vanno corretti prima, ma soprattutto vanno identificati prima, perché indubbiamente c'è l'occhio pigro che magari subisce un piccolo strabismo secondario a questo problema, e quindi questo allerta il genitore. Ma ci sono delle condizioni in cui l'occhio dominante mette a riposo l'occhio che vede meno, sì, e senza lasciare evidenti segni, se non quello di chiudere l'occhio buono, e uno si accorge, magari troppo tardi, che l'altro non vede. Certo, nel corso della trasmissione parleremo naturalmente di controlli da fare, il dottor Loperfido ci darà delle indicazioni, cioè noi genitori dobbiamo imparare a guardare i nostri bambini, perché la loro postura, il modo in cui si muovono ci può dare delle indicazioni. Questo non vuol dire che ci deve essere un'autovalutazione da parte dei genitori o possiamo sostituire la visita oculistica, ma restate con noi e restate soprattutto anche se avete dei bambini che vanno a scuola. Molto spesso, quando fanno fatica a leggere o accusano mal di testa, si dà la colpa alla vista. Non sempre però è così, magari ci sono problemi di vista, ma se il bambino ci vede bene potrebbe essere invece il segnale di una dislessia, di cui parleremo nel corso della giornata, perché oggi proprio seguiamo i nostri bambini nel corso della giornata, quando fanno i compiti e come si rapportano con libri e quaderni. Dottor Loperfido, sono la donna di denario, una domanda per lei, perché mi ha colpito molto quello che ci ha detto nella prima parte dell'intervista che le ha fatto appunto Nicoletta, relativa al fatto che portare i figli dall'oculista è un'abitudine che la maggior parte dei genitori italiani non ha. È anche colpa della crisi economica, perché sa, tra apparecchio per i denti e le spese che si devono sostenere per andare a scuola e la piscina e lo sport, addirittura si rischia di far rimanere un po' indietro questa che mi sembra invece una priorità nei controlli. Anche per la crisi, è anche questione di difficoltà economiche? Ma diciamo che il discorso non è tanto la visita, che di per sé stesso ha un costo relativo, e probabilmente il costo più evidente poi resta nella soluzione, perché quando ci sono degli occhiali questi hanno dei costi. Anche se devo dire che ci sono alcune aziende, sono senza fare nomi o pubblicità, ci sono alcune aziende che proprio in questo periodo di ottobre, proprio in previsione dell'apertura delle scuole, hanno creano delle condizioni economiche particolari con delle, quindi bisogna approfittare dei vantaggi, proprio per dare dei vantaggi alle famiglie, informarsi che anche su che questo, se vostro figlio ha gli occhi rossi, si affatica a leggere, a scrivere, ha mal di testa dopo aver visto la TV, scritto al computer, dopo aver letto a lungo, chiamateci. Potrebbero essere segnali di disturbi visivi non ben identificati nella prima infanzia. Attenzione, come diteci anche qualcosa della vostra vista, perché dottor Lo Perfido, alcuni disturbi visivi, per alcuni disturbi visivi l'ereditarietà conta, è così? L'ereditarietà conta moltissimo, sia le miopie sia l'ipermetropia elevate e anche gli astigmatismi hanno un asse ereditario, quindi se in famiglia esiste o la mamma o il papà con un difetto visivo, o anche i nonni, perché molte volte può saltare una generazione, questo deve indurre automaticamente ad allertarsi, indipendentemente che il bambino abbia o non abbia difetti visivi o manifesti fastidi o sintomi. Alla nascita c'è un controllo, dottor Lo Perfido, guardiamo il calendario dei controlli, poi voi suggerite di portare il bambino ai 3 anni e poi prima di andare a scuola e poi controlli regolari, è questo il calendario? Sì, allora alla nascita quasi di routine i bambini vengono visti per quelli che possono essere dei difetti, più che difetti di vista, delle patologie che a volte possono essere presenti proprio alla nascita, come non so la cataratta congenita o ereditaria, oppure il buftalmo, un glaucoma acuto o altre patologie dell'occhio che possono essere presenti proprio anche alla nascita, anche delle malattie. Quindi c'è una sorta di screening. Quindi uno screening viene fatto proprio alla nascita. Poi? Dopodiché il concetto è che nel momento dalla nascita fino a 1 o 2 anni il bambino è sotto osservazione, a meno che un genitore non veda un difetto visivo evidente come uno strabismo che manifesto. E poi qui spiegherò un particolare. Questo deve portare il genitore a far visitare il bambino anche nell'arco dei primi 2 anni di vita. Tenga presente che molto spesso il bambino il neonato all'età di 1 o 2 anni e anche prima manifesta un epicanto, cioè una palpebra superiore la cui plica scende fino alla palpebra inferiore e nasconde una parte di sclera bianca. E questo fa identificare un falso strabismo. E molti genitori si preoccupano anche di questo. Quindi identificare una realtà tra quello che può essere un epicanto da quello che può essere un vero strabismo. La visita non è invasiva, anche ai 3 anni il bambino viene, quali sono gli esami a cui viene sottoposto? C'è la dilatazione della pupilla? La dilatazione della pupilla viene fatta anche a 3 anni, proprio perché viene vista sia il cristallino e con una strumentistica un po' più particolare, perché è dedicata a loro, che è lo Skepens, viene visto il fondo dell'occhio, la papilla, e quindi viene visto nel suo assetto più completo l'occhio del neonato fino all'età scolare, quindi queste osservazioni attraverso la dilatazione sono quanto mai fondamentali. Abbiamo Samuele da Vicenza e Fabio da Napoli in linea, ma io devo essere Ligia, e perché Carmelo mi dice, mi sta facendo segno dopo. Intanto invito gli ascoltatori a restare con noi, perché insieme al dottor Lo Perfido analizzeremo la postura dei vostri bambini. È un indicatore importante che può segnalarci eventuali disturbi visivi non ancora diagnosticati. Se il bambino si curva troppo sui libri, se li tiene lontani, se li mette in obliquo. Restate con noi, 800 24 00 24, Deborah, la donna dei denari. Cuore e denari. Eccoci qui, il cuore e denari, Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone. Non abbiamo ricordato i modi per contattarci oggi, dai, Nicoletta, vai. Li dico tutti quanti a tamburo battente: 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta, per i vostri messaggi 349 238 6666 scriveteci le vostre mail a cuoredenari@radio24.it. siamo su Facebook e siamo anche su Twitter. C'era un ascoltatore che chiedeva: vorrei il libro che avete regalato ieri. Ieri ne abbiamo regalati due, uno sul fumo e uno sulle obbligazioni, chissà quale vorrà. Che ci riscriva e bravo, ce lo dica, così lo regaliamo. Nicoletta. E noi torniamo ad occuparci della vista dei nostri bambini. Lo sappiamo, nulla può sostituire la visita oculistica, ma se noi osserviamo i nostri figli, li guardiamo attentamente mentre scrivono, leggono, stanno seduti a fare i compiti, possiamo avere delle informazioni importanti sulla loro visione. 800 24 00 24, intanto che il dottor Lo Perfido ci si prepara per darci preziose indicazioni, noi andiamo a sentire. Samuel è caduto, tutto caduto. Dottor Lo Perfido, il dottor Lo Perfido ce l'abbiamo? Sì, sì. Ah, vede che lei è una garanzia. Lei è restato. Allora, il bambino che tende ad allontanare i libri e i quaderni, essendo piccolo, non può essere presbite, mi dico io, no? Assolutamente, il bambino in questo caso è un ipermetropo, tutti i bambini quando nascono sono estremamente ipermetropi, l'ipermetropia si ha perché fisiologicamente l'occhietto è più corto, man mano che si cresce l'occhio inizia ad avere una dimensione che lo porterà verso la fase adolescenziale, quindi l'ipermetropia si riduce. Quando permane un'ipermetropia elevata, questa va corretta perché dà disturbi astenopeici. Cioè, cosa sono quei disturbi? Ha dei disturbi che portano ad un affaticamento immediato o quasi immediato da vicino, che si manifesta con svogliatezza, lacrimazione, senso di abbandono di quello che si sta scrivendo, e molto spesso questo viene scambiato anche per altro, ma comunque è una cosa che viene sottovalutata perché un bambino ipermetrope può anche arrivare a vedere 10 decimi pur avendo delle grosse ipermetropie. Quindi assolutamente questo comporta poi a scuola un discorso di apprendimento importante, perché un bambino che vede male nel passaggio vicino lontano vedrà molto male da vicino, vedrà molto male la lavagna. Gli complichiamo la vita e anche l'apprendimento. Andiamo al caso opposto, dottore, il bambino si incurva quasi a cercare di portarsi molto vicino ai libri e quaderni, assume una posizione curva e curvo sui libri pur essendo piccolo, avrebbe bisogno di andare a giocare all'aperto. Tra l'altro ci sono delle ricerche che dimostrano che i bambini quando giocano all'aria aperta hanno anche meno disturbi di miopia. Questo infatti corrisponde a un difetto visivo quale è la miopia. Il bambino miope non corretto tende a avvicinarsi molto al testo e quindi più alta è la miopia, più questo atteggiamento di postura è evidente, e soprattutto la cosa che più poi lo danneggia è il fatto che da questo atteggiamento posturale ravvicinato si trova ad alzare immediatamente lo sguardo per vedere la lavagna, vede molto sfocato, stringe gli occhi. E questo comporta un rallentamento della percezione di quello che vede, che va in disincronia con quello che dice la maestra. E questo porta automaticamente a un deficit, a una differenza di apprendimento legato alla vista. Quindi vediamo quanto è importante la vista nel concetto di difetto visivo corretto e apprendimento. Per andare bene a scuola ci vogliono 10 decimi, insomma. Questo sì, e soprattutto un errore che fanno molto spesso i genitori e anche alcuni che lo consigliano, che consigliano i genitori, è quello di dire: ok, sei miope, l'occhiale lo metti solo da lontano, ma quando sei da vicino lo togli. No, il miope l'occhiale lo tiene sia da lontano che da vicino, perché poi è il muscolo ciliare che inizia a fare il suo lavoro accomodando. Leggo da questa parte del tavolo i messaggi che stanno arrivando, anche stamattina sono tantissimi, al 349-238-6666, un ascoltatore ci dice: purtroppo si fa confusione, ci si fida non solo del solo controllo della vista dall'ottico e non dal medico oculistica, credo che il professor Lo Perfido sarà d'accordo su questo. Un altro ascoltatore, Marco d'Alessandria, ci dice: sono affetto da retinite pigmentosa, quindi sono grave ipovedente, ho 45 anni, non è più un bambino, fino a 20 anni giocavo a calcio e tennis e poi ho smesso, adesso lavoro come centralinista, il mio aiuto vitale, il Signore e la famiglia, speriamo anche Radio 24. Questo era perché volevo salutarlo. Andrea da Bologna: per i bambini sui 35-40 anni raccomandate visite periodiche per prevenire il glaucoma, che è molto diffuso. È così, Nicoletta? Dottor Lo Perfido, naturalmente oggi parliamo di bambini, vogliamo ricordare l'importanza dei controlli dei bambini senza dimenticare i controlli degli adulti. C'è un'età in cui tutti gli adulti, anche in assenza di sintomi, dovrebbero farsi controllare, e La magnifica età dei 40 anni, perché, sì, dottor Loperfido? I famosi 40 anni. Indubbiamente 40 anni è il passaggio a livello tra una visione perfetta da lontano e da vicino. Dopo i 40 inizia la presbiopia. Chiaramente la presbiopia non è riconosciuta da chi, essendo miope, in qualche modo accomoda, ma anche questo è uno sbaglio, perché un miope a 50 anni è anche un presbite, quindi va diversificata la correzione. E questa è la motivazione e la scusa con cui, attraverso una valutazione per un difetto visivo, viene anche controllata la pressione dell'occhio, l'eventuale opacità del cristallino che aumenta con l'età e le condizioni retiniche. Andiamo a Napoli, ci chiama Fabio, e poi abbiamo Gianni da Brescia. Qui vi chiedo di essere molto sintetici perché abbiamo molte telefonate e un ospite che ci sta aspettando per parlare di lettura. Come leggono i vostri bambini? Leggono bene, correttamente, correntemente? Fabio, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, molto brevemente. Vabbè, premetto che ho prenotato una visita oculistica, sì, il giorno 20, quindi avrò presto un'altra risposta. Però ho mia figlia, sì, che ha 5 anni, e sembra, quando guarda fissa in un punto, riesce volontariamente o involontariamente a far partire uno dei due occhi. Praticamente, sì, cioè, fino a quando io non glielo faccio notare, lei ha questa sorta di strabismo, però solo quando si incanta guardando un punto. Glielo dico e lei, diciamo, li rimette a posto, normale. Grazie Fabio. Dottor Loperfido. Sì, questo può nascondere sia un difetto visivo sottostante e sia uno strabismo latente, non manifesto, che in alcune condizioni di particolare di sguardo viene evidenziato. Questa è una delle condizioni assolute in cui una visita oculistica e strabologica diventa necessaria. Andiamo a Gianni che ci chiama da Brescia. Buongiorno Gianni, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua, ci dica. No, io volevo sottolineare un aspetto quando si parla di occhi dei bambini, nel senso che si fa troppo spesso una valutazione solo di patologie legate alla retina, quando invece ci sono dei problemi legati alla muscolatura degli occhi che creano dei grossi compensi sia posturali che anche di apprendimento, che vengono purtroppo un po' misconosciuti. Lei già prima ha accennato alla dislessia, esattamente. Bravo. E di questo volevo dire, sì, perché esiste una scuola, soprattutto francese e portoghese, che ha notato che tutti i bimbi dislessici hanno problemi di postura e che molto spesso i problemi di dislessia, di disgrafia e di discalculia, eccetera, sono molto legati a delle patologie che, visto che c'è il professor Loperfido, posso dire il nome, si tratta di forie verticali che non vengono quasi mai diagnosticate. Si tratta di fare una valutazione complessiva, funzionale, certo, non della patologia della retina. Grazie per questo intervento di Gianni da Brescia, che, Debora, abbiamo capito, deve essere molto tecnico, ma io voglio salutare il professor Giacomo Stella, professore di psicologia clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia e fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia. Buongiorno. Buongiorno. Bentornato. Buongiorno. Come potevamo parlare di vista senza parlare di dislessia? Perché c'è un legame. Tante volte i disturbi di lettura vengono interpretati come situazioni in cui il bambino magari vede male. In realtà, se la vista è a posto, se il bambino non è svogliato, la lettura è un ottimo indicatore, professor Stella, per individuare precocemente un disturbo di apprendimento. Certamente, la lettura è un indicatore fondamentale, perché lei tenga conto che il 95% dei bambini scolarizzati in prima elementare, dopo un anno di esposizione, sono in grado di leggere fluentemente le parole semplici e di riconoscere tutte le lettere stabilmente. Ovviamente ci sono una percentuale oscillante fra il 5 e il 10% dei bambini. Quindi, visto che sono 500.000 quelli che vanno a scuola in prima elementare, ci sono 50.000 bambini che hanno delle difficoltà in questo processo, che per la maggior parte dei bambini risulta naturale. Su questo ci sono. Ecco, quali sono i segnali che un genitore non deve sottovalutare? Perché così li passo anche a Debora, che ha dei nipoti che stanno crescendo, e esatto, lei è una zia, tra l'altro, esatto, precisissima. Primo bambino, 6 anni, ecco, sta andando in prima elementare. Bene, allora adesso naturalmente è un po', bisogna avere un attimo pazienza, che impari. Dare tempo di imparare le lettere, anche se questo tempo è molto veloce, ci sono bambini che già dopo un mese di scuola sanno riconoscere tutte le lettere. È chiaro che invertire le lettere, scambiare le lettere a lungo o addirittura invertire le sillabe, non trovare il segno visivo quando si guarda la lavagna, sono tutti indicatori di una difficoltà che poi si trasferisce anche quando uno ha il foglio di testo davanti e quindi ha dei problemi sia derivanti da una difficoltà di diciamo ridurre l'affollamento visivo di un foglio, sì, quindi di indirizzare la sua attenzione. Questi non sono ovviamente problemi né di acuità visiva né di postura, come sa benissimo il mio amico Lo Perfido, che tanto vi salutate, certo, che così ne approfittiamo per salutarci che non riusciamo a vedere, ma sono comunque problemi che indicano una difficoltà di apprendimento, perché teniamo sì, conto che questo è una forma di apprendimento automatico e implicito. Ecco, il che non significa, professore, sottolineiamolo, i bambini dislessici hanno sono bambini ugualmente intelligenti come gli altri, non c'entra l'intelligenza, anzi forse anche di più. Anzi, la dislessia si basa proprio sulla discrepanza fra un'attesa della comparsa di un'abilità che si basa ovviamente sull'intelligenza constatata del bambino, sì, e improvvisamente si vede che in questo caso la sua intelligenza, la sua capacità di apprendimento non si manifestano come negli altri. Professore, prima di andare a, prima di salutarle, poi abbiamo anche le informazioni sul traffico, state lì. È molto importante dire che la prossima settimana, bravo, a livello europeo c'è la settimana di sensibilizzazione sulla dislessia. E a questo proposito devo dire che in alcune librerie italiane, proprio nel corso della prossima settimana, anche a Milano, a Roma per esempio, viene dato uno screening gratuito sulle difficoltà di lettura per i bambini della scuola primaria. Perfetto. Proprio perché non si fa una diagnosi, no, ma si aiuta a identificare, allora, stia come lì, legge il tuo bambino. Professor Stella, stia lì che così la saluto dopo le informazioni sul traffico e salutiamo anche il professor Lo Perfido e diamo le indicazioni per questa iniziativa. Tra poco. Allora, io saluterei il professor Stella e il dottor Lo Perfido, Deborah, sì, che sono stati con noi, stati abbiamo parlato di prevenzione. Quindi, dottor Lo Perfido, controlliamo i nostri bambini, osserviamoli mentre si muovono, leggono, fanno di conto. Queste sono delle indicazioni importanti, questo è il messaggio che possiamo dare. Non trascurate la vista dei vostri bambini. L'appuntamento invece per questi controlli, possiamo definirli così, professor Stella? Sì, in se occasione. Se uno vuole sapere in che libreria andare, deve cercare su www.giuntialpunto.it, sì, oppure sulla pagina Facebook di SOS Dislessia oppure sul sito www.sosdislessia.it. Mi sono preparato. Guardi, lei mi ha detto altrimenti ci tempestano di telefonate, ecco, per sapere dove andare. Mettiamo anche su Facebook. Un saluto dalla donna di cuore e dalla donna di denari. Grazie a tutti. Buona giornata a tutti. E adesso noi andiamo al tema dei denari, appunto. Cominciamo ad affrontare un argomento che indigna molti ascoltatori, soprattutto quando loro si imbattono con questi argomenti, notandoli magari nel corso di un telegiornale o leggendolo su un giornale. Quante volte ci capita di incappare appunto in un servizio che ci racconta di blitz delle forze dell'ordine e di ispezioni volte a stanare i falsi invalidi? E proprio perché siamo così vicini a chi vive queste situazioni, ci arrabbiamo ancora di più quando sentiamo queste notizie, no? Visto che Radio 24, Nicoletta, è la radio ufficiale degli ipovedenti e non vedenti, vogliamo proprio tutelare le persone che veramente hanno bisogno. Allora parliamo di questo adesso. Green Network Luce e Gas ti fa risparmiare davvero. Finalmente la buona notizia. Vi presenta Salva Danaio. Tra un mesetto deve passare un altro controllo medico, sa? Un altro? L'ho fatto 15 giorni fa il controllo medico. Abbi pazienza, deve ammettere che il suo caso è un po' singolare, un po' strano, viaggiando con un camion. No, parcheggiato, col mio camioncino. Tirai il freno a mano, con questa mano qua, quando lo potevo tirare il freno a mano, e parcheggiai. Ero lì tranquillo, quasi per addormentare, pum! Mi arriva una botta di dietro, ma tremenda! Ho sbattuto la testa nel vetro davanti e sono svenuto. E mi sono svegliato così. Anzi, mi è andata bene. C'è gente che rimane cieca, sorda, paralizzata. Hai capito? E mi dovreste dare di più! Mi sono rovinato, anzi, non posso fare più niente, né mangiare, leggere, scrivere. Mi dovreste dare il doppio, il triplo, il quadruplo, perché siete voi assicurazioni. Va bene, va bene. Volevo solo dirle che nel mio mestiere incontro un sacco di imbroglioni. Non è il suo caso, per carità. E questo era Johnny Stecchino, Roberto Benigni, nel 91, un personaggio che si finge affetto da un grave tic, e chissà quanti di questi falsi invalidi, appunto come diceva anche il medico protagonista di questo brano, affollano le sale dei medici. Allora anche voi raccontateci cosa ne pensate di questo fenomeno, siete mai incappati in un falso invalido, come vi siete comportati davanti a questa situazione, l'avete denunciata, raccontatecelo all'800240024 oppure 349-238-6666, potete come sempre per seguirci su Facebook e su Twitter. C'è una campagna molto intensa contro questa attività fraudolenta da parte della Guardia di Finanza e noi ne parliamo con il colonnello Giovanni Avitabile, capo ufficio tutela uscite e mercati del Comando Generale delle Fiamme Gialle. Colonnello Avitabile, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Come mai la Guardia di Finanza interviene anche in questo campo e quali sono le tipologie di controllo che effettuate? La Guardia di Finanza interviene in questo campo perché ha un'attività che vuole tutelare, oltre che l'economia, anche il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, soprattutto di quelle risorse che vengono messe a disposizione di categorie svantaggiate o perché appunto purtroppo incappate in problemi di carattere fisico o comunque in problemi di carattere economico. Ovviamente è un'attività che noi facciamo con grande intensità, perché l'obiettivo, ripeto, è quello di tutelare le persone che hanno realmente bisogno di queste risorse. I nostri controlli sono di carattere speditivo, veloce, cosiddetti controlli a massa, cioè con attività che riguardano la verifica di singole o massi di dati relativamente a questi aspetti, oppure attività di carattere investigativo più penetrante, anche con i poteri di polizia giudiziaria, nei casi in cui sono ipotizzabili vere e proprie truffe ai danni dello Stato. Ecco, quindi concretamente come vi capita di venire a conoscenza di un abuso? Ve lo segnalano i cittadini oppure per esempio l'INPS, che erogando le pensioni di invalidità, magari quando si insospettisce di una determinata situazione, ve la segnala e vi dice andate a verificare? Certamente, le fonti sono diverse, possono essere denunce di cittadini, ma anche denunce di medici, magari che hanno dubbi su quello che gli si è presentato davanti nel corso magari di esami clinici o di accertamenti nei confronti di persone che presentano domande per avere questo tipo di prestazioni, o anche certamente con la collaborazione che comunque abbiamo intensa anche con l'INPS. Colonnello Avitabile, un ascoltatore al 349-238-6666 ci dice falsi ciechi dovrebbero sottolineare i mezzi di comunicazione, come le varie commissioni mediche qualche volta dichiarano in maniera, come dire, sospetta questa cecità. Fate pubblicità e quindi segnalate, dice l'ascoltatore, i falsi medici che dichiarano la cecità di una persona che invece è vedente. Cosa ne pensa la Finanza di questo? La Finanza, la Guardia di Finanza è una forza di polizia, quindi ovviamente nelle sue investigazioni cerca di trovare tutte le responsabilità ai vari livelli, comprese quelle riferibili a soggetti che hanno prestato la propria attività professionale per attestare situazioni di invalidità non reali. Abbiamo avuto casi di indagini anche molto significative in cui sono state individuate delle reti di connivenze che riguardavano sia medici sia, diciamo, autorità di altro livello e che comunque appunto consentivano poi un'erogazione indebita di risorse destinate a persone che ne hanno veramente bisogno. 5 secondi per una domanda di Nicoletta Carbone. Che cosa risponde, colonnello, a chi pensa che voi abbiate un accanimento nei confronti dei disabili? No, ringrazio per la domanda perché questo mi consente di precisare che la Guardia di Finanza non è accanita nei confronti di nessuno, tantomeno con le categorie che purtroppo devono scontare dei problemi di carattere fisico. Noi siamo anzi a favore di queste persone perché la nostra attività mira esclusivamente a garantire la legalità in tutte le sue varie forme e quindi anche il diritto alla percezione di risorse che lo Stato mette a disposizione di persone bisognose. Colonnello, un'ultima domanda, se io vedo un falso invalido come devo comportarmi? Io suggerisco sempre di verificare la possibilità appunto di chiamare, noi abbiamo un numero di pubblica utilità, il 117, al quale possono essere fatte arrivare delle segnalazioni o anche di rivolgersi presso i nostri comandi che sono sparsi sul territorio per fare appunto o delle segnalazioni o anche delle vere e proprie denunce, ovviamente nei casi in cui... Mi rendo conto che non è proprio una bella situazione quella nella quale ci si può trovare, però appunto è anche scorretto nei confronti invece di chi vive una condizione di difficoltà realmente. Colonnello Avitabile, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon grazie lavoro naturalmente. Buon lavoro. Noi abbiamo Margherita da Napoli, la facciamo intervenire. Margherita, ci scusi, subito dopo... È colpa di Carmelo. È colpa di Carmelo, oggi gli diamo tutte le colpe. La sentiamo, Margherita, ci scusi, subito dopo il nostro giornale radio. Stop. Cuore e denari. Dottor Colombo, ci sono state due domande di trasferimento a suo nome. Sì. Una recente per persona a mobilità ridotta e un'altra di 6 mesi fa, il cui richiedente è normodotato. E lei è la stessa persona, dottor Colombo? Le ho fatte io queste domande, sì. Quella come persona sana, perché volevo che la mia richiesta fosse considerata come quella di tutti gli altri. È importante, sa, per noi disabili vedere negli occhi di voi persone cosiddette normali qualcosa che vada al di là della semplice pietà. Ma se questo rimette in discussione il mio trasferimento, io sono... Ma no, è solo una semplice verifica purtroppo necessaria perché abbiamo spesso a che fare con dichiarazioni false per ottenere sedi ambita a Milano. Ah sì? Già, succede molto spesso. Che vergogna. Ma non è il suo caso, dottor Colombo. Si troverà bene a Milano. Eccoci ritornati a Cuore e Denari, ancora buongiorno da Deborah Rosciani. Era Nicoletta Carbone. Quello che abbiamo ascoltato era Claudio Bisio in Benvenuti al Sud, film del 2010, perché stiamo parlando del fenomeno dei falsi invalidi. Continueremo a parlare anche di pensioni di invalidità, ma non dimentichiamoci che oggi è la giornata mondiale della vista. Certo, Deborah, e va detto che anche l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e l'Unione Italiana Ciechi hanno preso posizione per riguardo al problema dei falsi invalidi ciechi. A questo proposito, ieri abbiamo sentito il presidente del IAP, l'avvocato Giuseppe Castronovo, dato che in queste ore si trova al Senato presso la sala degli atti parlamentari della biblioteca Spadolini a presentare la giornata mondiale della vista. Ma sentiamo che cosa ci ha detto. Sia l'Unione Italiana Ciechi sia l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità combattono con tutte le energie, anche con iniziative giudiziarie, i falsi ciechi, quelli veramente falsi, che guidano le macchine, le moto e che vanno in giro liberamente. Certo, vi sono alcuni casi che assolutamente, pur essendo non falsi ciechi ma ipovedenti, secondo la legge 138 si tiene in considerazione il campo visivo. Spesso qualche oculista equivoca e può anche sbagliare. Quindi i falsi ciechi li combattiamo perché danneggiano i veri ciechi. Per combattere i falsi ciechi, sia, dicevo, l'Unione, sia l'Agenzia, attraverso il Polo Nazionale della Prevenzione e della Riabilitazione Visiva, va bene, riceviamo, visitiamo, controlliamo affinché queste situazioni, che lo ripeto, danneggiano i ciechi, non si verifichino più. Perché questi falsi ciechi sono la rovina dei veri ciechi. Quindi noi stiamo dando tutto il contributo professionale, scientifico, affinché questo fenomeno triste della nostra società non si verifichi più. E questo credo possa essere un pensiero totalmente condiviso anche dall'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dal quale vogliamo sapere come controlla affinché l'assegno di invalidità venga erogato alla persona giusta, quella che ne ha bisogno. Questa mattina con noi Onofrio De Lucia, vice coordinatore nazionale della Commissione Medica Superiore INPS. Dottor De Lucia, buongiorno e grazie di essere con noi. Le faccio ascoltare subito un paio di ascoltatori, perché non appena abbiamo anticipato che avremmo parlato di questo argomento si sono subito messi in coda naturalmente per intervenire, e aspetta da un po' la nostra Margherita dalla provincia di Napoli all'800 24 00 24. Margherita, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci dica. Allora, io ho 74 anni, sono invalida civile al 73% e ho una casa di proprietà dato incomodato a mia sorella, per cui fino adesso ho dichiarato solo la rendita catastale. Adesso questa casa la devo fittare. e devo dichiarare il... Certo, il reddito che percepirà, diciamo, da questo affitto. C'è un limite di reddito per non perdere la pensione. Io usufruisco anche della legge 448-2001. Grazie Margherita, io non conosco esattamente i termini di questa legge, ma adesso ci faremo spiegare anche quali sono i criteri per avere questo assegno di invalidità. Dottor De Lucia, ha sentito? Intanto le chiedo quante ne eroga annualmente l'INPS? Guardi, annualmente le prestazioni in pagamento, tenendo conto di tutte le prestazioni per invalidità civile, cecità e sordità, sono 2.781.621, quindi quasi 2.800.000. Ovviamente i beneficiari sono di meno, perché ci sono beneficiari che percepiscono due prestazioni, cioè l'assegno o la pensione a titolo di invalidità lavorativa e l'indennità di accompagnamento. E sono un po' meno di 2 milioni i beneficiari in Italia. Certo. Per una spesa totale che nel 2013 è stata di poco superiore ai 14 miliardi. Senta, prima Margherita ci ha spiegato il suo caso, non è una persona non vedente come quelle delle quali abbiamo parlato per gran parte della trasmissione, però ha dato una cifra, sono invalida al 73%. Che cosa indica questa percentuale e chi la stabilisce? La signora ha detto che lei ha più di 74 anni. Sì. Ha 74 anni. Quindi la signora ha già avuto una trasformazione in assegno sociale della sua pensione di invalidità, quindi non ha più una pensione di invalidità ma un assegno sociale e quindi deve informarsi sui limiti reddituali dell'assegno sociale. E quindi non hanno nulla a che fare, diciamo, questi lemmi con quelli della pensione di invalidità. Sono una cosa diversa. Allora cercheremo magari di rispondere a Margherita privatamente. A proposito dell'assegno di invalidità, dottor De Lucia, a gennaio c'è stata la famosa polemica sulla circolare che l'INPS aveva diramato e che stabiliva che per il riconoscimento dell'assegno andava considerato il reddito coniugale al posto di quello individuale. Poi la circolare è stata ritirata. Poi c'è stato l'intervento della Corte di Cassazione e poi il pacchetto lavoro che ha stabilito in via definitiva, a quanto pare, che va considerato solo il reddito individuale. Siamo a posto. Perfetto. Così sono previsti altri interventi? Ecco, dalla serie le cose semplici non ci piacciono. Il discorso è definitivamente chiuso. Il discorso in realtà riguardava la pensione di inabilità, perché l'assegno mensile che spetta all'invalido con una percentuale pari o superiore al 74% fino al 99%, aveva come limite reddituale quello personale di 4.738 euro attualmente. Invece la pensione di inabilità che spetta all'inabile totale, cioè al 100%, aveva come limite reddituale, ha come limite reddituale 16.127 euro. Era controversa l'interpretazione della norma se si trattasse del personale o del reddito familiare. Le posso dire, per farla breve, che proprio ieri la Direzione Centrale Invalidità Civile ha emanato un messaggio a tutte le sedi INPS in cui si chiarisce che il reddito a cui fa riferimento è quello personale. Quindi si taglia la testa al toro rispetto a una serie di sentenze controverse. Infatti. Sono state in materia. Ecco, ma dottor De Lucia, nel frattempo, in attesa di avere un chiarimento definitivo, sono state sospese delle pensioni in questi 6-8 mesi? Che io sappia, no. Ah, ecco, allora noi siamo tranquilli. Certo, no. Se non lo sa lei, dottor De Lucia, io vorrei leggere alcuni messaggi e ad esempio, tornando proprio all'invalidità, parlate anche dei veri invalidi e cosa sopportano con la scusa dei falsi invalidi, ci scrive Luigi. E io, donna di cuore, non potevo non andare a pescare questo messaggio. E abbiamo in linea con noi Paolo che ci chiama da Napoli. Buongiorno. Paolo, buongiorno. Buongiorno, allora, sono cieco assoluto e cosa sopportano i falsi invalidi? Sopportano il sospetto continuo di chi pensa che siamo dei falsi invalidi, noi invece veri invalidi. Tanto per cominciare, qualche anno fa è stata proposta una manovra finanziaria al ministro Tremonti in cui un elemento della manovra era l'innalzamento del tetto per la pensione dal 74 all'85%. Sì, ce lo ricordiamo. Come lotta ai falsi invalidi. Mm-hmm. La signora Rosciani sicuramente lo ricorderà. Sì. È sul pezzo. Paolo, direi che Deborah è sul pezzo. Sì, la vedo subito che è lì che si muove con i suoi numerini. No, con la... Va bene. E quindi Paolo, in virtù di questa novità, lei era successo qualcosa? Che veniva denominata lotta ai falsi invalidi. Certo. Anche lì c'era, diciamo, un errore, come dire, semantico. Comunque io, per esempio, quando mi sono trovato con un automobilista che aveva parcheggiato sopra le strisce, avendo fatto un po' di questioni, chiaramente si era fermato anche un campanello di gente, ho preso il telefonino per chiamare i vigili e sono stato subito tacciato di essere un falso invalido, ma voglio dire, lo diceva seriamente, non era una cosa per certo dire. Paolo, solo per il fatto che io avevo guardavo il telefonino. Ah certo, perché il fatto avesse denunciato in qualche maniera era la tecnologia, la tecnologia adesso aiuti non esatto vedendo. Tra l'altro abbiamo dei dati anche su questo. Paolo, comunque lei adesso a posto, nessuno mette più in discussione la sua disabilità. No, qualche volta non è messa in discussione nel senso aperto. Diciamo, però lei dice mi sento guardato con sospetto. Io credo che una persona cieca al 100% la si veda anche fisicamente, esteticamente. Nicoletta, tu me lo insegni, certo. Cioè, ecco, ci mancherebbe altro. Viviana da Verona, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Ascoltando, ho avuto lo stesso problema con mia madre. Ah, perché? Che oltre perché aveva l'invalidità al 75%, invece era cieca al 100%. Poi ha avuto degli altri problemi da diabete e prima di ottenere l'invalidità del 100%, siamo andati avanti oltre misura, ha dovuto rompersi un... Allora, non è volante. Addirittura. Viviana, guardi, la sentiamo malissimo, ma il nocciolo della questione l'abbiamo perfettamente capito. Dottor De Lucia, ma insomma, un falso invalido riesce ad ottenere un assegno con una facilità che è disarmante, proprio scoraggiante qualche volta. La persona che invece è in seria difficoltà, prima di avere un assegno, che non è che poi sia quell'assegno che cambia la vita, perché certo, economicamente non è che sia neanche altissimo, deve fare... Ecco, deve l'accompagnamento fare... 499. Che ne pensa di questi casi che abbiamo sentito? Guardi, metto il dito sulla piaga. E su una piaga che è una piaga storica, perché la storia dell'invalidità civile è quarantennale, noi come INPS siamo subentrati da 3 anni e ci siamo resi conto immediatamente che gli obiettivi prioritari erano dare trasparenza a tutto il processo, legittimità a tutto il processo, omogeneità valutativa in tutta Italia, cose che abbiamo trovato carenti, perché abbiamo trovato una grossa disomogeneità valutativa tra regione e regione, spesso anche tra provincia e provincia o tra commissione e commissione. Quanta responsabilità hanno i medici in questa situazione? Stanno arrivando davvero tanti messaggi Di medici. Guardi, anche arrabbiati che magari vengono da medici. Io distinguerei il problema dei falsi invalidi dal problema delle concessioni benevole, cioè di quelle delle valutazioni disomogenee. Non è allineate ad una media Non sia così nazionale. Diplomatico, vada dritto al punto. No, non sono diplomatico, non sono diplomatico, perché nel falso invalido in genere c'è dietro un medico delinquente che commette un reato, cioè un falso ideologico, a meno che non ci sia il falso materiale da parte del falso invalido, così come abbiamo trovato a Napoli, cioè certificazioni fasulle falsificate dallo stesso falso invalido, ma negli altri casi c'è un falso certificato da parte del medico ed è un falso ideologico ed è punito per legge, perché si tratta di pubblici ufficiali e quindi dovrebbe essere punito anche severamente. Certo. E qui entra in campo la magistratura, entra in campo il sistema giudiziario. E la Guardia di Finanza, prima che abbiamo raccontato che fa molti blitz. Ecco, tra l'altro, dottor De Lucia, perché a me interessa anche capire questo. Abbiamo letto proprio ieri, per preparare la trasmissione, abbiamo cercato qualche caso recente. A Latina, per esempio, sono stati scoperti dei falsi cechi, denunciati per truffa ai danni dello Stato, 3 persone che per 20 anni, non un anno, ogni mese hanno percepito la pensione di invalidità per cecità totale, parliamo di centinaia di milioni di euro. Ma questi poi voi li recuperate, li redistribuite, che cosa fate? Noi questi li recuperiamo perché una volta che si stabilisce sulla nostra visita, in genere, guardi, noi operiamo su due fronti. Esiste il sistema delle verifiche straordinarie che il legislatore ha previsto dal 2009 e che ha portato fino ad oggi a rivisitare oltre 800.000 titolari di prestazioni, su quel 1.900.000 di cui le parlavo prima. Esiste poi da parte nostra un intervento ogni qualvolta si rende necessario, nella collaborazione con la Guardia di Finanza e con l'autorità giudiziaria. C'è una collaborazione che dura ormai da qualche anno, loro hanno preso da noi gli elenchi dei ciechi e degli invalidi, andare a stanare, fanno i loro controlli che sono spesso fondamentali, perché sono in grado di seguire il falso cieco in situazioni ambientali in cui pensa di non essere visto. Quelli che guidano magari motorino, noi successivamente li visitiamo, se confermiamo la non spettanza dei benefici, l'INPS recupera le somme, certo, tutte le somme indebitamente. Allora, a me tra l'altro stavo pensando che a me indispettisce il fatto che ci sia il falso invalido che percepisce la pensione, ovviamente, ma indispettisce ancora di più che arriva a fare un controllo una persona disabile vera e non viene creduta come quelle che ci stanno ascoltando. Andiamo a Chieti allora, c'è Maria Luisa, 800 24 00 24, buongiorno. Telegrafica Maria Luisa, buongiorno. Perché stiamo chiudendo, buongiorno. Grazie. Buongiorno, buongiorno, sono molto contenta di intervenire, a parte che io sono una mamma, sono un infermiera, ma sono anche invalida e mia figlia è disabile dalla nascita, ha 20 anni, e prende l'accompagno più l'invalidità, e io sono 10 anni che prendo l'invalidità, prendo le mie 250 euro. Mi sono un po' indispettita perché l'anno scorso sono stata richiamata proprio dall'INPS, io ho tanto di cappello all'INPS, per l'amore di Dio, perché i controlli devono farli, giustamente, certo, devono farli, poi sono, diciamo, siamo protetti da loro. Però niente di più di questo, perché loro una volta che ci richiamano, adesso chi ci tutela? Chi ci dice che questa pensione non ce la toglieranno? Non ci richiameranno e ci bloccheranno tutto, perché noi siamo abbandonati a noi stessi. Cioè, Maria Luisa, cioè, se d'altronde se la sua disabilità è incontestabile, ci mancherebbe altro. Ci scriva, per carità, se le dovessero fare dei controlli inaccettabili e ingiustificati. Andiamo anche a Enzo D'Alecco, che ha un papà con delle difficoltà. Certo. Enzo, buongiorno. Buongiorno signore. Rapidissimo, grazie. Rapidissimo, mio padre, 91 anni, facciamo una domanda di invalidità. Le leggo due righe che dice: invalido ultra 65enne con gravi e persistenti motivi a svolgere le sue attività giornaliere, articolo 3, grave 100%, ipovedente, con pannolina addosso, a mio padre è stato negato l'accompagnamento di invalidità. Ho finito. Come la storia. Grazie Enzo, com'è possibile? Sì, dottore De Lucia. Allora, guarda, chiudiamo, grazie. Io voglio tranquillizzare per invalidi. Il nostro obiettivo non è quello di tagliare a caso la spesa assistenziale, ma è quello di razionalizzarla per far modo che le risorse economiche disponibili vadano dove c'è bisogno e non vadano altrove. Questo è il nostro obiettivo. Ripeto, abbiamo cominciato da 3 anni, ma è in questo senso che stiamo lavorando. Molto bene, allora guardi, purtroppo dobbiamo salutarla, dottor De Lucia, però siccome stiamo ricevendo veramente una marea di messaggi e telefonate, ci ritorneremo su questo argomento. E per le situazioni più problematiche che ci sono state denunciate questa mattina, giriamo anche i casi per i controlli visivi. Esatto, al dottor De Lucia, così vediamo se possiamo un po' mobilitare per loro. Mettiamo in pista i nostri esperti. 30 secondi per raccontare la curiosità di oggi, ce l'hai, dai, però. Carina. Vai, le gaffe che vengono fatte proprio legate alla vista. Naturalmente i più gaffosi sono gli uomini, è un'indagine che ci è arrivata ieri, è stata fatta per conto di Ottica Avanzi con una metodologia particolare. E comunque scambiare la propria borsa, la giacca in ufficio con quella dei colleghi, confondere una persona con un'altra, insomma, io ragazzi, però state attenti. Io ti riconosco benissimo, so che domani ci ritroviamo qua alla stessa ora, alle 11 rotti, dopo il giornale radio con ed è Cuore e Denari. Non fate gaffe. A domani. Cuore e Denari.